partir. Tu sei chiusa nel mio cuor, lo sento, quest'amore è tutto il mio tormento. Non partir. Forse tu vai lontano per cercarlo mio, vuoi lasciarmi senza dirmi addio. Forse tu, perché non sai che l'amore è una fiamma che brucia e divampa nel cuore, e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancor nell'amor. Non partir, non partir, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire. Non partir. Perché non sai che l'amore è una fiamma che brucia di vampa nel cuore, e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancor nell'amor. Non partir, non partir, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire. Non partir, non partir, ormai mi vedi, non.